le gambe che fanno Giacomo Giacomo, non ho mai capito perché Giacomo e non Pierino. Come? Ah sì? Le gambe. Mi vedi normale tu? Normalissima, perché? Mi sto perdendo qualcosa? Ti tremano un po' le gambe, le mani? Mi tremano un po' le gambe. Come? Ah sì, le gambe. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. 3x5, 25, 6x3, 33, 2x8, 48, 3x9, 29, 6+2, 42, 3x8, 48. A Cuore Denari oggi parliamo di gambe. L'estate non è ancora decollata, ma le gambe si stanno preparando a vivere la loro stagione d'oro. E quindi con i nostri ospiti raccogliamo i consigli utili per il loro benessere e i rimedi per rimetterli in forma. Ma attivatevi già sin d'ora anche voi, sportivi o sedentari, giovani o meno giovani, date i numeri, proprio come stiamo sentendo da Giovannotti, date un voto da 0 a 10 alle vostre gambe, chiamate il nostro numero verde 800 24 00 24 per approfittare dei nostri esperti che sono già qui in studio con noi, esperti di gambe ma anche di movimento, il professor Giovanni Battista Agus, ordinario di chirurgia vascolare dell'Università di Milano e presidente d'onore del Collegio Italiano di Flebologia, che tornate a trovarci. Buongiorno professore, bentornato. Bentornato, volentieri, molto volentieri, saluto tutti, ben ritrovati, grazie. Qui in studio abbiamo anche il piacere di avere una grande amica di Cuore Denari, Tite Toni, insegnante di yoga certificata Iyengar e creatrice del progetto Yoga per Runner. Namaskar. Ciao Tite, bentornata. Gambe belle, gambe in forma, gambe sane, per far star bene le nostre gambe in fondo ci vuole poco, ma iniziamo ad osservarle. Professor Agus, ci impresti il suo occhio clinico. Le belle gambe per lei sono gambe, sì, belle dal punto di vista estetico, ma soprattutto gambe che stanno bene. Questo cosa vuol dire? Ma partendo da lontano vuol dire 350 milioni di anni di evoluzione che hanno portato l'uomo alla locomozione dell'Homo erectus, cioè l'uomo che sta in piedi. E la forma e la funzione delle gambe, ma di più ancora del piede che noi abbiamo oggi, come la vediamo oggi, ha una funzione basilare non certamente inferiore ad organi sicuramente più nobili come il cuore e il cervello. Tite, oggi tu sei qui per dare dei consigli ai nostri ascoltatori. Chiediamo naturalmente a loro di chiamarci per dare un voto alle loro gambe da 0 a 10, per dirci se sono giovani o meno, o diversamente giovani, uomini o donne, sportivi o sedentari. Io direi di suggerire già subito un esercizio molto semplice da ascoltare per radio, ma da rifare subito quando torniamo a casa, e inizierei dai sedentari, perché devo dire che il muro è amico dei sedentari. Partiamo da qua. Il muro ce l'abbiamo tutti. Eh? Esattamente. Cosa che dice sempre il mio maestro Iyengar. Il muro è il nostro maestro. Allora usiamolo per sostenerci la schiena, ma per usare le gambe con una posizione in piedi che non affatichi troppo la schiena. Quindi ci sediamo, si chiama seggiola yogica, Uttanasana. Ci sediamo con la schiena al muro, i piedi scostati dal muro e praticamente con le gambe rispetto alle cosce a 90 gradi. Quindi, sì. Esattamente come una seggiola. Lo schienale e la schiena al muro e stiamo 30 secondi respirando normalmente. Questo creerà intenso calore perché è una posizione molto intensa da tenere. E quindi con il respiro andiamo a portare ossigenazione e curiamo la forza e la potenza delle gambe, perché le gambe per stare bene dovrebbero essere anche forti, no? Professor Agus, certo. Ci vuole tono muscolare per far stare bene le nostre gambe e un po' gambe toniche come quelli degli sportivi, ma anche le gambe degli sportivi hanno un punto debole. Sono gambe che noi ammiriamo, adesso soprattutto che inizia la bella stagione, ci mettiamo in costume, si vede la differenza tra gambe che hanno lavorato, tra virgolette, e gambe invece che sono state sedute. Però, ecco, anche le gambe degli sportivi hanno il loro tallone d'Achille. Sì, il tallone d'Achille è un punto debole, direi che è, secondo me, più che quello che hanno nel momento in cui sono attivi, il momento di smettere quella loro attività ipersviluppata. Questa è la tragedia di molti sportivi eccellenti con bellissime gambe, abbiamo appena finito di vedere il Giro d'Italia, dovrebbero continuare invece, continuare e mantenere un pur minimo allenamento, perché sennò alla lunga, diciamo che noi dilettanti li battiamo. E in questo senso ci sono degli studi delle università americane, penso ad Harvard ma non solo, che hanno dimostrato come i propri studenti universitari, che vengono invogliati a gareggiare, a fare molto sport perché questo dà valore all'università, quando smettono diventano inferiori ai loro compagni che non avevano fatto sport agonistico. Quindi continuate sportivi, tenetevi in allenamento. Basta poco in fondo, professor Agus, per uno sportivo a tenersi in allenamento. Tradotto in consiglio pratico, per uno sportivo anche amatoriale che si è allenato e che poi a un certo punto per una serie di ragioni deve dare uno stop, cosa vuol dire tenersi in allenamento, mantenere il tono muscolare delle gambe a livello per avere delle prestazioni ma soprattutto per mantenere la salute delle gambe, il benessere delle gambe? Ma farò esempi di grandi sportivi che ho conosciuto e ho anche curato, giocatori del Milan, dell'Inter, tanto per dire il calcio è popolarissimo, non chiedendogli di continuare a fare i calciatori ma di fare altri sport, non citerò i nomi, ma ci sono degli ottimi tennisti che prima erano degli ottimi calciatori. Ecco, questo è fare dello sport che li diverta, perché lo sport intensivo evidentemente può essere alla lunga noioso, come anche gli stessi bambini che fanno nuoto tutti i giorni ci dimostrano, i nostri figli intendo. Tite, abbiamo detto il muro è amico dei sedentari, ma anche gli sportivi hanno un esercizio suggerito oggi, sì, da Tite Togni. Per i runners, che quindi hanno necessità completamente diverse, e cioè di invece di riportare spazio dentro il proprio corpo, anche dentro le gambe, Virasana, o meglio ancora Vajrasana, la posizione del diamante, cioè stare seduti in ginocchio sui propri talloni, quindi sulle tibie, con i glutei sui talloni, e si può alternare 10 respiri con le dita dei piedi in sotto e poi 10 respiri invece con il collo del piede appoggiato a terra. Perché così, questa differenza? Perché? Bisogna sentirla, perché così, così fai respirare, cioè allunghi sia il polpaccio che i tibiali, oltre ai quadricipiti. Quindi esercizi di allungamento per gli sportivi, la sedia, il muro, spalle al muro per i sedentari. Spalle al muro per i sedentari, così potenziano. E invece chi corre sta seduto, anziché sbaccato su una poltrona, nella posizione del diamante o del fulmine. Praticamente seduto sui talloni. 800 24 00 24, se volete parlare con noi delle vostre gambe, se volete dare un voto alle vostre gambe, soprattutto se volete osservarle insieme ai nostri esperti, sfrutteremo l'occhio clinico del professor Agus. Abbiamo proprio chiesto ai nostri ascoltatori che ci stanno già rispondendo: guardiate le vostre gambe, le analizzeremo oggi palmo a palmo. Una bella gamba è da ammirare, ma non mi dispiacciono le caviglie robuste. Anzi, posso dire che mi attirano, perché promettono qualcosa di più armonioso, risalendo lungo le gambe. Rappresentano una sorta di mistero insondabile. Professor Agus, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di descriverci le loro gambe, ma adesso dobbiamo farlo anche noi. Partiamo con l'osservazione. La prima cosa che si nota, o almeno che notiamo noi donne quando iniziamo a toglierci collan, pantaloni, iniziamo a indossare le gonne, sono le venuzze, i capillari, le vene, che con il caldo sembrano più evidenti. Le consideriamo solo dal punto di vista estetico, ma professor Agus, lei ci dirà anche la differenza quando quando sono solamente un problema estetico e quando invece sono un segnale di altre condizioni. Iniziamo dalla caviglia? Certo. Ecco, ci piace sottile, anche se abbiamo sentito che nell'uomo che amava le donne preferiva anche la caviglia grossa, grande, un po' importante al suo perché, ma ci sono questi capillari che sono alcuni all'interno, alcuni all'esterno della caviglia. Cambia la situazione e la posizione dei capillari o sì, è il colore? Sì, sì, dunque questi capillari che definirei bruttini, non esageriamoli, ma bruttini lo sono, sì. Se sono nella parte mediale della caviglia, intorno al malleolo mediale, appunto, si parla di corona flebectasica, che è un primo segno di futura malattia, cioè avranno un'evoluzione. Se invece sono sull'esterno della gamba, parlo del malleolo, ma anche più in alto, lungo appunto i muscoli tibiali citati prima, beh, questi sono più inestetici e non avranno conseguenze patologiche. Però, tutto sommato, io ritornerei sul grosso della caviglia, perché questa caviglia grossa, queste gambe che si formano a colonna e che fanno perdere quel rapporto così equilibrato che ha soprattutto la donna tra caviglia più sottile, radice della gamba, radice della coscia, beh, questo è importante conservarselo, oltre che per l'estetica, anche per la funzione. Quindi le caviglie grosse del film vanno bene, robuste, possono piacere, ma tutto sommato la caviglia da gazzella ci piace di più. Però uno nasce con la caviglia sottile, professore, sì. Cosa si può fare? Certamente non ci si può cambiare, anzi bisogna accettarsi, su questo non c'è dubbio, però io parlavo di caviglie grosse e di gamba colonna laddove c'è qualche cosa di aggiunto alla nostra costituzione, ed è soprattutto il grasso, tant'è vero che si parla di celluliti, oppure si parla di lipoedema, e lipo vuol dire grasso. Questo grasso si può togliere, si può modellare. Tite, ci insegni anche tu un esercizio oppure qualche suggerimento per snellire un po' la zona? Adesso noi ci stiamo occupando della caviglia, ma saliremo polpaccio e coscia, sì. ogni pezzetto di gamba trova il suo problema, perché noi donne soprattutto sulle gambe, certo. O perché se abbiamo la caviglia sottile, perché però è il polpaccio grosso, oppure il ginocchio che cade, o la coscia che va giù, insomma non siamo mai contente. Ma sulla caviglia anche lo yoga non può far nulla, mi sbaglio? Fa tantissimo. Fantastico. Allora, tutti con le caviglie sottili. Indovina con cosa? Con le posizioni invertite, capovolte, che fai drenare, no? Sì. È esattamente al contrario della forza di gravità, che invece fa gonfiare. Quindi una banalissima posizione come Viparita Karani, che significa semplicemente il nome è difficile però la posizione è semplice, nome è bellissimo, che in realtà significa lago rovesciato. Comunque è la posizione capovolta basilare, semplicemente mettersi sdraiati accanto a un muro con le gambe sollevate contro il muro, il più possibile con i glutei anche al muro, quindi a tavola, cioè 90 gradi busto gambe, magari anche con sotto un cuscino sotto la zona lombare, in modo che si crei un piccolo ponte nella zona lombare, e lì si sta, come dice Tite e tutti gli esperti che praticano yoga, e si respira anche se senti che anche tirano i muscoli minuti. Anche 10 minuti. Professor Agus, la prescriviamo 10 minuti al giorno di gambe al muro? Penso proprio di sì, sono d'accordo. Soprattutto in questo periodo in cui le gambe, soprattutto la sera, si fanno sentire, e se si fanno sentire anche le vostre, cambi di stagione. Infatti noi ci incontriamo col professor Agus sempre nei cambi di stagione. Se le vostre gambe si fanno sentire soprattutto la sera, e quindi se notate che ad esempio avete il segno del calzino se siete maschi, oppure del cinturino se siete donne, chiamateci 800 24 00 24, e insieme al professor Agus noi saliamo al polpaccio. Uomini e donne sedentari e sportive, il polpaccio parla. Professor Agus, che cosa racconta? Racconta che nel polpaccio c'è la muscolatura principale del nostro muoverci, sono i muscoli gemelli nella parte posteriore, gemelli proprio perché sono due gemelli, come due uguali, uno mediale e uno laterale. Ebbene, questi sono il vero motore del nostro corpo, e non solo per la circolazione sanguigna, ma proprio in generale per il movimento, che sia il progredire al passo, camminare, che sia nella corsa, di cui giustamente si parla, o anche nella pedalata, dato che, come sappiamo, siamo appena usciti dal Giro d'Italia e sono contento che si stia tornando agli antichi amori per il ciclismo. E se si ha il tempo, vorrei dire anche nella stessa danza, perché le posizioni del modo giusto della danza, una figura per tutte, l'arabesque, prevede reggersi su una gamba portando l'altra sulla parte posteriore della schiena. Bene, tutto questo richiede dei buoni gemelli, quindi è il fulcro del nostro corpo, questo punto, il polpaccio. 800 24 00 24, ma mi state scrivendo anche al 349 238 6666. Leggerò naturalmente i vostri messaggi, ma prima voglio dare la parola ad Ornella, che ci chiama da Novara, e subito dopo a Salvatore dalla provincia di Napoli. Intanto i runner vogliono una ripetizione degli esercizi, ma noi possiamo dire che li metteremo sulla nostra pagina di Cuore Denari, forse dico addirittura filmati, forse, perché... E se no con fotografia. Allora, andiamo ad Ornella. Buongiorno Ornella, benvenuta. Buongiorno Nicoletta. Io ho 61 anni, faccio parecchio sport perché cammino tutti i giorni un'ora e poi una o due volte la settimana d'inverno faccio sci alpinismo, in primavera trekking e bicicletta da corsa, però nonostante questo ho le gambe brutte, ho la cellulite nella zona delle ginocchia e delle cosce, e purtroppo questo probabilmente data l'età, ho anche la pelle cadente, il muscolo appena si intravede e la pelle intorno è tutta cadente. Allora, cosa un po' un corso rapido di autostima, un pochino, sì. Questo ci vuole? No, ma questo è oggettivo, sono proprio brutte da vedersi. Avrà dei begli occhi Ornella, puntiamo sugli occhi, ma il professor Agus forse ha qualche indicazione da darle, e sicuramente anche Tite e Toni. No, devo farle i complimenti, oltretutto amando la montagna come lei, trekking, sci, alpinismo, eccetera, tutto perfetto, è virtuosissima, però bisogna mettersi in mani altrui, perché se la struttura, vediamo questa cellulite localizzata alle ginocchia eccetera, qualche scivolamento, lì la persona forse da sola non ce la fa, quindi bisogna mettersi in mani di una massaggiatrice, di un massaggiatore, di persone che abbiano le conoscenze per fare quella ridistribuzione dei tessuti, compreso il grasso, che possono dare un risultato estetico, perché a questo punto nel suo caso si deve parlare solo di estetica e non di salute, perché lei è salutista al massimo. Quindi professor Agus, ci sono con i massaggi si può sicuramente intervenire su tutto quelli che sono i problemi legati al tono muscolare, che nonostante l'attività fisica di Ornella tende a non essere al massimo. Ci sono alcuni tipi di massaggi particolari che lei suggerisce o... Generalmente tutto si riconduce al cosiddetto massaggio drenaggio linfatico manuale. Sì. In realtà ci sono anche macchinari, adesso non li citerò per non citare nomi commerciali di macchinari, che fanno molto bene e devo dire che vengono usati largamente con buon risultato, però mai come la mano di un fisioterapista o anche estetista esperta, perché ci sono delle estetiste realmente esperte, se hanno fatto corsi, conoscono l'anatomia, sanno dove drenare quello che di troppo si ferma in una parte delle nostre gambe. I risultati si vedono dopo un ciclo di professor Agus, ci vuole tempo, all'inizio sarà anche, purtroppo sì, perché sono tutte cose che il sistema sanitario nazionale non passa, vuoi perché le considera di estetica, vuoi perché anche nella stessa riabilitazione ci sono stati dei forti tagli, perché a mio avviso invece laddove c'è un concetto riabilitativo dovrebbe essere passato dal sistema sanitario nazionale, come lo è stato sino a pochi anni fa, e questo vuol dire sia il massaggio sia le terapie, massoterapie in acqua, su cui magari si ritornerà. Assolutamente, perché andiamo anche un po' alle terme, che sono un toccasana per le nostre gambe, e per chi non può e non vuole andare alle terme possiamo portare le terme a casa nostra con i consigli del professor Agus, che ci racconterà come utilizzare l'acqua. acqua, i vari getti di acqua calda, di acqua fredda, la doccia, il bagno. Salvatore, buongiorno dalla provincia di Napoli, benvenuto. Sì, buongiorno, buongiorno a voi tutti. La domanda mia è molto semplice, 55 anni, colesterolo 250, trigliceridi 600. Mi dicono che può portare stanchezza alle gambe. Io pensavo che fosse legato al fatto di non avere più 20 anni. È vero? E se è vero, un'alternativa ovviamente è ridurre questo, e se è opportuno pigliare dei farmaci con questi valori. La ringrazio. Grazie professor Agus. Qui entriamo nell'altra parte della circolazione delle nostre gambe, o meglio dei nostri arti inferiori, la circolazione arteriosa, dunque quella che li nutre gli arti con l'ossigeno. Bene, il colesterolo e i trigliceridi sono un fattore di rischio per le nostre arterie, ma non è assolutamente vero che affatichino le gambe. Questo è da sfatare. Per cui noi faremo la nostra dieta senza necessariamente arrivare subito ad assumere farmaci anticolesterolo, la corsa diminuisce per esempio il colesterolo e i trigliceridi, questo è poco noto, e quindi questa attività, forse più i 55 anni senza allenamento che le affaticano le gambe, non certamente il colesterolo. Il colesterolo non deve essere mitizzato, in ogni caso non è fonte di disturbo, ma lo diventa se fa diventare l'aumento di questi grassi malattia che si chiama aterosclerosi, cioè la chiusura delle nostre arterie. Io le auguro di non essere in questo quadro di persone, anche se lei per esempio non fosse fumatore come mi auguro, avrebbe un rischio molto ma molto ridotto. 800 24 00 24, richieste d'aiuto per Tite, Tony. Allora, gambe da merlo, quindi gambe proprio sottilissime, invece ci sono ascoltatori che dicono corro e ho il polpaccio magro e la coscia troppo forte. Allora riportiamo equilibrio, riporteremo equilibrio, pensiamo ai mercati, dopo i mercati. Cuore e denari. Ma le gambe a me piacciono di più. Vi piacciono le vostre gambe? Oggi vi abbiamo invitato a dare un voto da 0 a 10 alle vostre gambe, sotto il profilo estetico ma anche proprio funzionale. Come le sentite? Provate a raccontarci una vostra giornata tipo. Alla mattina, quando scendete dal letto, quando camminate durante il giorno e alla sera quando tornate a casa e di notte si muovono. 800 24 00 24, abbiamo il piacere qua di avere in studio con noi due esperti che ci aiutano a recuperare il benessere delle nostre gambe o a mantenerle in forma, il professor Agus e Tite Togni. Professor Agus, abbiamo guardato le nostre gambe con un occhio clinico, ci manca l'analisi della coscia. La coscia ci dice qualcosa, perché di solito le vene, i piccoli capillari ne notiamo intorno alla caviglia, poi le vene varicose o quelle che vediamo all'occhio le notiamo nel polpaccio. La coscia sembra una zona tranquilla della... e invece... Mica tanto, qui cade l'asino. Però se mi è concesso, vorrei fuggiamo anzi tutti insieme dal rattristarci con la cellulite, che se sceglie un luogo più di tutti gli altri è proprio la coscia, i lati delle cosce eccetera. Io non vorrei parlare di cellulite una volta tanto, ma vorrei citare un verso di un grande poeta latino, se mi è concesso. Ma certo, Ovidio: belle hai le cosce, devi farle ammirare in questo modo. È un altro modo di vedere le cose. È vero, questo ci piace. Tite, hai sentito il professor Agus che ci regala anche un verso di Ovidio che cambia un po' il nostro punto di osservazione, un po' come fa anche lo yoga. Eh sì, è un continuo cambiare il punto di osservazione per ritrovare l'equilibrio, sempre più verso l'interno. Per ritrovare l'equilibrio, quell'equilibrio che spesso per una serie di ragioni tendiamo a perdere. Tanti messaggi al 349-238-6666 che voglio leggervi. Che cosa si può fare per i crampi al polpaccio? È sintomo di qualche anomalia metabolica, ci scrive un ascoltatore. Ormai ogni volta che abbiamo un piccolo segnale pensiamo a qualche cosa, no? Di grave. Invece in realtà dovremmo per prima cosa rilassarci, poi cercare di capire sicuramente di più per evitare certo, che... Certo, fin troppo uso di magnesio e potassio dietro questa cultura giusta del metabolismo che la persona ci comunica. Però bisogna pensare anche alle cose più semplici. I crampi sono anche un iperlavoro, un eccesso di lavoro, un lavoro delle fibre muscolari che deve essere graduato. Chiunque faccia il runner sa che prima o poi si dovrà fermare in una gara e gli conviene fermarsi per un crampo al polpaccio piuttosto grave, che se inteso a continuare potrebbe addirittura rompergli delle fibre, quindi pregiudicargli l'andamento. È un buon campanello d'allarme. Tite, i runner aspettano da te un esercizio, un trucchetto, un segnale. Vai. Va bene, facciamo il guerriero 1, sempre col muro che è il nostro maestro. Allora, in piedi ci affacciamo al muro questa volta e portiamo un piede al muro, con le dita dei piedi al muro, flettiamo il ginocchio, facciamo il sinistro, quello del piede al muro, ok? E invece portiamo l'altra gamba, la destra, indietro, con il piede girato di 60 gradi e tutto il piede a terra. Quindi la gamba sinistra avanti è piegata a 90 gradi e il ginocchio sarà molto vicino al muro. Okay. L'altra gamba dietro è estesa, tassativo, estesa. È una sorta di affondo. È un affondo, è proprio il lounge. Affondo, bravissimo. Affondo. La con le dita giusta. Delle mani respingiamo il muro, sì. Braccia tese, dita delle mani che respingono il muro. Mm-hmm. Quindi il mio busto è al centro tra le due gambe. Okay. E quindi è perpendicolare al suolo, non è inclinato verso il muro, dritti davanti al muro. Esatto, questo è il guerriero 1. In questo modo, nella gamba piegata, potremo fortificare la coscia, diciamo la sinistra, mentre con la gamba dietro andiamo a stirare tantissimo il polpaccio. Questo lo suggeriamo ai runner, ma in generale anche alle persone che sentono spesso formicoli, tensioni, gonfiori, che è una delle richieste ricorrenti degli ascoltatori che ci stanno scrivendo al nostro numero verde. E intanto andiamo a sentire Gigi dalla provincia di Lucca, Mimmo, che deve essere amico di Gigi, abitano comunque nella stessa zona, li facciamo incontrare e poi ci spingiamo a Latina con Dario. Gigi, buongiorno. Salve, buongiorno, sono Gigi, abito in Versilia. Fortunato lei. Io ho 40 anni, faccio cameriere da 20 anni, perciò cammino circa 20 km al giorno per il mio mestiere. Ultimamente, ultimo anno, sono andato in palestra per aumentare un po' la massa muscolare, specialmente alle gambe. Cioè, le gambe un po' più asciutte, sono toniche ma sono un po' magrine. Sì. Mi dedico circa 20-30 minuti solo alle gambe e ultimamente ho preso anche dei integratori alimentari di aminoacidi, ramificati, sì. Glutamina, peptide, vitamine, insomma. E lei voleva sapere se faceva bene? Ecco, quando li prendo mi sento un po' meno stanco, sia durante il lavoro che durante l'allenamento. Poi quando faccio quel mese di stop, mi sento le gambe un po' pesantite, sia al lavoro che durante l'allenamento. È una cosa normale e che devo fare? Che deve fare Gigi? 20 km al giorno quando prende gli integratori e va in palestra, le gambe volano, quando smette le gambe si fanno sentire. Professor Agus. Ma sta facendo tutto bene, l'unica cosa che, sì, tra l'altro usare delle sostanze alimentari salutistiche, perché non sono certo farmaci, è positivo. C'è da dire che i 20 km al giorno che fa sono tutt'altro che sportivi, sono la fonte della stanchezza, perché il passo dello sportivo è un passo continuativo, regolare, più o meno veloce. Il suo è un passo di un lavoratore che fa un lavoro duro e quindi è difficile da eliminarsi in quanto tale. Però al nostro amico della provincia di Lucca, Tite, noi consigliamo di mettere le gambe al muro, almeno quando va a casa si mette le sue belle gambe al muro, sta lì, respira 10 minuti e vedrà, non diventeranno delle gambe da Schwarzenegger, magari rimangono da merlo, però almeno sono riposate. Mimmo, buongiorno dalla provincia di Lucca. Buongiorno, buongiorno a tutti. Salute Gigi. Dunque, perché magari Mimmo. Domenica, un ciclista della domenica. Sì. domenica io faccio una cinquantina di chilometri in bicicletta, strade della Versilia, però vedo che qualche volta ho dei problemi poi, in seguito, di crampi, specialmente nella fascia della costa, della coscia posteriore, la fascia posteriore della coscia. Sì. Mangio banane, qualcuno mi ha suggerito di mangiare banane perché sono cariche di potassio, ma non vorrei diventare dall'uomo erectus all'uomo chinatus. Mimmo, lei è troppo simpatico. Professor Agus, ma è... perché lei, oltre a essere un grande esperto di, no, di tutto quello che comporta, no, tutte le nostre, l'apparato, come si può dire, idraulico delle nostre, sì, idraulico e l'acqua, ma ecco, noi parliamo nostre, di apparato sanguigno, certo, quindi sangue, linfa, questo è anche, ma uno non sportivo. È in gioco che positivamente tutto questo in un ciclista, e la spinta al sangue e alla linfa è eccezionale in un ciclista. Infatti non sta descrivendo un disturbo di tipo circolatorio, ma di tipo tendineo muscolare alla coscia posteriore, cosa che può succedere, non me ne dispererei, si va avanti, ecco, anche se non sempre a banane, diciamo così, non lo vedrei, ecco, come un grande problema. Chi fa molto, qualche prezzo lo deve pagare, 50 km di uscita sono una buona, un buon una ritmo, performance. Una buona performance di cui essere lieti. Sono come 25 di corsa. Ah, c'è questa... 25 e 50, e quindi se, anche se ti occupi di runner, puoi dare un consiglio a chi va in bici, no Tite? Non, ma non, per... non possiamo essere così di parte. Certo, il problema sono gli hamstring, i prosciuttoni dietro. Sì. E io alternerei, appunto, sempre cercherei di riallungarli quando sono in fase di riposo, e quindi anche la posizione che ho appena citato, del guerriero 1, che trovate e che troverete sulle pagine di Cuore Denari. Ottaviano da Roma, professor Agus, sentendo la nostra trasmissione, si è molto incuriosito riguardo al solco del lasciato dal calzino e ci chiede: la cosa mi succede spesso, non credevo potesse essere un problema legato alla circolazione, potete spiegarmi meglio? Allora, dove c'è un segno, professor Agus, soprattutto alla fine della giornata, che sia dell'accetto della scarpa, del calzino, che cosa dobbiamo pensare? Che è un imbibimento dei tessuti sottocutanei. Imbibimento vuol dire che può essere o sangue che fuoriesce, trasuda dalle nostre vene, o linfa che non ce la fa a risalire dai quei sottilissimi vasi che sono i linfatici, o più frequentemente acqua che si carica nelle parti più declivi del nostro corpo e lasciano il segno laddove anche una sola digito pressione, e noi lo chiamiamo fovea, cioè la fossetta, quando schiacciamo col pollice lo vediamo come lascia una fossetta e quanto tempo ci mette a risalire la pelle sul piano cutaneo. Beh, questo è sicuramente un segno, non dico di patologia, ma di inizio di patologia. Consigli? Consigli sicuramente movimento e, se frequente, l'uso di una calza elastica. Ci sono anche da uomo, dato che stiamo parlando di un uomo, gambaletto naturalmente, non calzino. Gambaletto vuol dire una calza graduata che ha il massimo di contenzione o compressione giù in basso alla caviglia e che degrada verso il ginocchio, arrivando a diventare il 50% di quella compressione che si aveva giù. Quindi non si avrà quell'effetto ghigliottina che molti pensano che possa provocare una calza portata sotto il ginocchio. Professor Agus, abbiamo anticipato che avremo parlato anche di terme, che per le nostre gambe, e non solo per le nostre gambe, sono un toccasane, per chi le terme non può frequentarle può portarsele a casa. E nel frattempo andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade, poi torniamo perché il professor Agus ci insegna ad utilizzare anche un po' l'acqua, trattamenti, no? Il caldo, il freddo, le doccette, che possono dare sollievo a chi, come tanti, torna a casa la sera e in questo periodo, come nei cambi di stagione, si sente un po' affaticato. Cuore e denari. Ed eccoci tornati insieme, 800 24 00 24 se volete parlare delle vostre gambe, anche di quelle della vostra moglie, di vostro marito. Ci sono tante amiche che mi stanno scrivendo per raccontarmi lo stato di salute delle gambe del proprio marito. Sono solitamente persone che fanno attività sportive, le mogli notano delle vene, delle venuzze comparire e sono un po' preoccupate. Professor Agus, prima di andare alle terme, i ciclisti, quando noi vediamo i ciclisti lungo la strada, vediamo che hanno polpacci importanti e spesso delle vene molto visibili. La vena che si vede, le vene varicose che danno così tante preoccupazioni alle persone, quali sono le indicazioni che lei ci può dare? Sono in rilievo? È il rilievo oppure il fatto che siano tortuose o il colore? Come possiamo farci una sorta di autodiagnosi? È domanda pertinente. Tra l'altro arrivano anche domande dagli ascoltatori riguardo alle loro vene evidenti dopo uno sforzo fisico intenso di sport, eccetera. Bene, bisogna distinguere la vena evidente, lineare, tonica, che sta lavorando di più, perché più sangue viene chiamato tramite le arterie per ossigenare i muscoli e altrettanto se ne deve andare via. Certo. C'è una via di arrivo e una via di ritorno del sangue. Bene, i ciclisti, ma addirittura campioni celeberrimi, hanno vene molto evidente soprattutto sulle cosce e sui polpacci, proprio perché sono la muscolatura che richiede sangue e deve rimandarlo indietro. Non è patologia. Queste sono vene ipertrofiche. Giusto è invece paragonarle alle vene sporgenti ma varicose, che sono patologia. Varix in latino vuol dire tortuoso, e lì si definisce la differenza tra una vena lineare, che è un bel condotto di sangue, e la vena invece ristagnante, perché è storta, è tortuosa. E queste sono varici che non fanno muovere il sangue ma lo tengono fermo. In questo senso bisognerà occuparsene e finanche, non in tutti i casi ma in buona parte dei casi, operarle. Andiamo ai consigli che avevamo anticipato. Portiamo le gambe alle terme, chi può, perché le terme fanno bene alle nostre gambe. Di terme devo dire anche una cosa attuale o antica allo stesso tempo. Antica perché credo che non ci sia nessuno che non sappia che l'acqua dà un'azione benefica al nostro corpo, sia intesa come bevuta, sia intesa come sul nostro corpo. E di questo ce ne ha parlato Ippocrate 2500 anni fa, è il padre della medicina. Per restare invece più all'attualità, mi permetto di citare che proprio questa settimana, siamo di martedì, ma sabato e domenica prossima si terrà un congresso specifico della Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare di tutto il nord dell'Italia a Salice Terme, località tra le 400 che abbiamo fortunatamente in Italia ottimali per fare delle terme, del termalismo, e questo congresso parleremo appunto delle implicazioni del termalismo sulla circolazione, dato che angiologo sono, questo è evidente. Bene. È un po' la medicina tradizionale dell'Ottocento. Sì, nasce infatti, nasce 2500 anni fa, passa prepotentemente nell'Ottocento grazie a un parroco della Bassa Baviera, l'abate Kneipp, che è ancora oggi popolarissimo oltre 100 anni dopo in Germania. Io ricordo che mi trovavo a Berlino quando 100 anni di Kneipp, era una festa, tutta la città era tappezzata del viso di questo abate Kneipp, ma credo che sia ben noto anche in Italia, perché il suo gioco di temperature diverse dell'acqua, allora lui usava il classico innaffiatoio delle piante, però diretto sulle nostre gambe, gettando prima l'acqua calda e poi la fredda con diverse temperature, eccetera. Però per rimanere alla scientificità di cui parleremo questo fine settimana in questo congresso della SIAP, di cui sono stato fondatore e adesso tra l'altro è conosciuto anche dagli amici di Radio 24, è presidente il dottor Guido Arpai, angiologo lombardo, e abbiamo organizzato questo congresso per rivedere appunto tutti gli aspetti del termalismo che vanno distinti, perché tutti hanno un'idea un po' generica, ma esiste un meccanismo aspecifico e un meccanismo specifico. Quello specifico è dell'acqua in quanto tale, della temperatura, della massa dell'acqua che fa una pressione, del gioco di movimenti attivi o passivi, mentre invece quella specifica è legata alla tipologia delle acque, cioè dei sali lividi sciolti, perché si dimentica che sono come dei medicamenti. Se io parlo di acque salsobromoiodiche, ce ne sono tantissime soprattutto in Emilia Romagna, ma non solo, queste sono per esempio disinibenti, quel gonfiore di cui si parlava prima. Quindi perché ha il gonfiore alla sera, le salsobromoiodiche. Però ci sono altre acque come le sulfure che hanno un'azione antinfiammatoria, altre acque. Quindi andrebbero bene per chi soffre di cellulite, professor Ragus? Sì, certamente, certamente, infatti è anche molto usata, certo, non solo per la medicina, ma anche per la medicina estetica, il termalismo. Oppure ci sono delle acque come le arsenicali ferruginose, le carboniche, che hanno delle azioni tonificanti. Beh, delle carboniche tonificano. Ecco. È già nel nome è un destino. E quindi diciamo così che queste famose 400 stazioni termali sono forse qualcosina di più di 400 stazioni termali, e non c'è regione d'Italia, compresa la mia Sardegna, che non abbia, seppure di meno che l'Emilia Romagna, seppure di meno che la Toscana, seppure di meno che il Trentino Alto Adige, terme di montagna. Bene, tutte queste terme, e poi la Campania, tutte queste terme offrono veramente dei benefici documentati. Dirò di più, senza entrare nello scientifico, che oggi, mentre prima era un'esperienza quindi empirica, oggi si fanno gli studi randomizzati, cioè gruppi di persone che vengono trattati con quell'acqua, con quel sale, e altre non vengono trattate con quell'acqua e con quel sale, e si vede il miglioramento nel gruppo. Insomma, per ogni gamba la sua acqua, certo, diciamo così. Certo. Forse fa male, eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù, la vertigine non è. Io non so, quando parlo di vertigine mi viene subito in mente un grandissimo esperto che è il professor Giorgio Guidetti, responsabile del servizio di audio vestibologia e rieducazione vestibolare a Modena, all'ospedale Ramazzini di Carpi. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a tutti. Professore, tra l'altro lei è un grande sportivo, che voto dà alle sue gambe? Una domanda imbarazzante. Direi un 10. Da 1 a 10. 10, grazie. Allora, professore, le gambe insomma ci tengono su, però a volte fanno Giacomo, sembrano vacillare, non essere ben posata a terra. Oggi cerchiamo di occuparci di loro insieme al professor Agus e a Tite Togni, ma abbiamo bisogno anche di lei, perché a volte non sono le gambe a muoversi, ma proprio abbiamo questa sensazione di testa che gira. Però magari non sono proprio, le gambe sono appoggiate per terra. Che sta succedendo? Guarda, quando uno sente il terreno che vacilla, oppure si sente vacillare anche col terreno fermo, di solito vuol dire che la sua funzione dell'equilibrio è deficitaria, da qualche parte nei circuiti che regolano l'equilibrio qualcosa è successo. E noi come... Nell'orecchio, può essere nel cervello, può essere nei comandi che dal cervello scendono alla gamba, sono tante le cause possibili. Sì. Ci dia qualche indicazione per non fare autodiagnosi, ma per capire che cosa sta succedendo, magari per individuare se è la centralina dell'equilibrio ad avere qualche problema o è altro. Allora, se uno vede il mondo intorno a sé che va in centrifuga, lì dubbi non ci sono, 9 probabilità su 10 è successo qualcosa nel labirinto, l'organo all'interno dell'orecchio deputato all'equilibrio. Se sente solo un senso di instabilità generico, il problema è molto più complicato, perché tantissime sono le cause possibili e bisogna darsi da fare anche valutando altre componenti, come appunto le zone del cervello. Insomma, è un classico di chi per esempio ha degli sbalzi di pressione, chi ha dei problemi di circolazione cronici, cioè, ecco, per dire, sì, è un soggetto magari con diabete o con colesterolo alto, con la pressione alta, deve cominciare a suonare un campanello d'allarme, dice forse c'è qualcosa che non va legata alla mia malattia, è meglio approfondire un attimo il discorso in direzioni diverse anche oltre al labirinto. Mentre se siamo noi che giriamo? Se siamo noi che giriamo, se proprio giriamo, tipo trottola, e di nuovo la probabilità che sia labirinto è alta. È meno probabile, però possibile, che si tratti anche, non so, di zone come il cervelletto, e comunque siamo tra l'orecchio e la testa, ecco, diciamo, più facilmente l'orecchio, un po' meno la testa. Professore, lei che è un grande esperto, le indicazioni che vuole dare alle persone che si sono riconosciute in uno dei 3 profili che lei ha tratteggiato? Quali possono essere? Se è una cosa, una tantum, un episodio momentaneo, può pensare a tutto, uno sbalzo di pressione, un po' di stanchezza, specialmente se ha avuto una sensazione breve e non preoccupante, non grave. Se il fenomeno si ripete, bisogna farsi vedere da un esperto di vertigini per cogliere con diciamo precisione i segni eventuali di sofferenza di una struttura piuttosto che l'altra e affrontarla precocemente per evitare che si sviluppino patologie più serie. Grazie professor Guidetti per essere stato con noi. In gamba, cosa devo dirle? Grazie. Buona giornata. Arrivederci. Forse prima del GR, non so, Paolo Corleone mi dice di no. Allora, abbiamo Dario che ci chiama da Latina. Dario, buongiorno. È caduto e volevo chiedergli se mi accompagnava a sentire il GR e Dario è caduto, ma noi andiamo a sentire il GR ugualmente tutti insieme e ritorniamo subito dopo 800 24 00 24. Professor Agus ha parlato del metodo Kneipp e gli ascoltatori di Radio 24 hanno iniziato a mandare dei messaggi, tutti la ringraziano per aver ricordato questo metodo che può essere applicato anche a casa, mi scrivono diversi ascoltatori e che è davvero un balsamo per tutti i problemi che interessano le nostre gambe, soprattutto quelle affaticate. Cuore e denari. A gambe levate, andare a gambe all'aria, avere buone gambe, camminare con le proprie gambe, darsela a gambe, incrociare le gambe, mettere le gambe sotto il tavolo, essere di gamba lesta. Mettere le gambe nel catino non è un modo di dire, ma un consiglio caldamente raccomandato non solo a chi si sente alla sera le gambe stanche. Vorrei altri consigli molto pratici dai nostri esperti qua in studio, dai professor Agus e Tite Toni. Tite, gambe nel catino con acqua? Con acqua salata, io addirittura tutta me stessa nell'acqua salata dopo le gare lunghe ed esco che sono nuova dopo aver fatto Viparita Karani, cioè quella posizione sdraiata con le gambe appoggiate al muro, anche si può fare nel letto con le gambe contro lo schienale della... Quindi prima gambe all'aria e poi in vasca da bagno con un chilo di sale grosso. Temperatura dell'acqua? Insomma, perché tiepida, perché ci sto un po'. Professor Agus, lei ci ha portato alle terme, portiamo le terme a casa nostra, quali consigli? Certo, continuando questo elenco di modi di dire sulle gambe, io potrei dire che sono di più i modi di dire con le vene. Mi si gelano le vene, mi tremano le vene, non sono in vena. Ecco, appunto, uno che non è in vena e che non ha il tempo, non direi quattrini, perché le terme italiane sono anche passate dal sistema sanitario nazionale, se c'è l'indicazione del medico, oppure bellissime stazioni dove ci sono spa bellissime, conosciute, spa vuol dire salus per acqua, lo sappiamo. Beh, facciamo il salus per acqua, la salute attraverso l'acqua a casa. La prima cosa da fare sicuramente direi che è proprio la doccetta alla Kneipp, usando la doccia telefono della nostra doccia, se lo abbiamo, ma cerchiamo di fornirci di questa perché ci permette di dare i getti alternati di acqua calda e fredda, ritornando al concetto di Kneipp. Ma ha già detto molto bene Tite della bacinella, chiaramente non tonda ma quadrata, di Moplen, dove ci mettiamo l'acqua. Sono favorevole a questo termalismo salino, ci sono anche sali specifici delle terme in acquisto in qualunque farmacia, notate bene. Terzo, non dimenticherei l'automassaggio. Se una massoterapista è sicuramente eccellente, conosce tutto, però un automassaggio fatto con determinati oli o con determinate creme ce lo possiamo fare anche noi. Se vogliamo fare gli ayurvedici possiamo usare l'olio di cannella con l'olio di Benjabu, che è una sostanza ayurvedica dello Sri Lanka, trovabile anche in Italia. Oppure se vogliamo fare proprio i rigorosi secondo le dettati della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport, usiamo le creme con acidi alcol cetilico, con vitamina E, con olio di oliva, quindi siamo più italiani. Bene, queste tre cose direi che permettono un ottimo termalismo e che permettono anche di risolvere molte situazioni non solo vascolari ma anche di tipo ortopedico, come un ginocchio un po' scassato, una caviglia addolorata, molto lenta, eccetera, dove possiamo ottenere dei risultati immediati. Insomma, a casa nostra ci possiamo fare nuovi, come si dice a proposito di detti. Fabio da Verona e Alessandro da Venezia. Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. A voi. Volevo capire una cosa. Da ieri mi fa male quando corro, correndo solo però, lato sinistro sotto il ginocchio e la gamba sinistra, e da gamba destra lato sinistro interno, sempre sotto il ginocchio, appena appena, però come una punta, una scheggia, qualcosa del genere. Sì, allora qui tra runner qua se la giocano tite. Se è un pizzicore, insomma, resistere. Molto probabilmente il ginocchio subisce quello che succede sopra e sotto, no? Le ossa e i muscoli. Uh-huh. Quindi la prima cosa che mi è capitato anche di fare è di ricercare di riportare spazio dentro il ginocchio, quindi allungando. Quindi rifarei la posizione del sedermi con i talloni, con i glutei sui talloni, a posizione del diamante. E per allungare quindi la muscolatura ed evitare questo problema. Alessandro, buongiorno da Venezia, vediamo se corre anche lui. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno Nicoletta, grazie di avermi richiamato. Vada, sì, Alessandro, siamo tutti per lei. Grazie. No, volevo chiedere, dottore, io pratico l'attività fisica 3 volte alla settimana, ho la massa muscolare in tutto il corpo a posto, però le gambe non riesco ad aumentare la massa muscolare, quindi magari... forse c'è un motivo specifico, vorrei sentire qualcosa. E costituzione o mancanza di allenamento giusto? No, io 3 volte a settimana faccio sì. Palestra. No, ho capito, ma mi stavo chiedendo, Alessandro, anzi lo stavo chiedendo a Tite e al professor Agus, se è probabile magari non si fanno gli esercizi giusti per potenziare quel tipo di muscolatura. Professore. Ma non necessariamente, perché qui dovremmo conoscere il peso, l'altezza della persona, conoscere la muscolatura. Sono numerosi runners con gambe sottili pur totalmente muscolose e invece magari hanno un giro vita più largo, quindi va un po' personalizzata la questione, non me ne farei una questione eccessiva, l'importante è che il tono muscolare lui lo abbia, faccia quella corsa 3 volte alla settimana di, suppongo, di almeno 30 km, uscite da 10 km l'una, spero, perché abbia significato. Perché sennò non si può neanche telefonare, professor Agus, perché qua questi due qua corrono, fanno le ultramaratone, mamma mia, che imbarazzo, 800 24 00 24, chiamate anche se non correte, come faccio io. Andiamo. Salviamoci la vogliamo, qua parlano i runner, guarda i kenyani, mamma mia, in Nepal, cioè hanno vinto dei nepalesi piccoli, tarchiati, con le gambette via e vanno, il ma noi Eldoret negli altipiani qua si scaldano, si scaldano appena uno dice corsa, i runner si infiammano, guarda, ma io oggi vorrei non parlare solamente di muscoli che sono importanti, di vene che sono importanti, ma anche della pelle delle nostre gambe. In linea con noi abbiamo il piacere di avere la dottoressa Corinna Rigoni, dermatologa e presidente della Fondazione Donne Dermatologhe Italiane. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Lei corre, dottoressa Rigoni? Dica di no almeno. Io poco. Anch'io, va bene. Noi camminiamo. La camminata veloce, la camminata alla milanese. Ecco. Senta, dottoressa Rigoni, noi vogliamo con lei osservare la pelle delle nostre gambe, anzi toccarle, perché spesso in questa stagione è secca, grigiastra, soprattutto ora che siamo all'inizio della bella stagione, salta agli occhi e da poco soprattutto abbiamo abbandonato colan, pantaloni, la pelle secca, e quindi l'idea è dobbiamo idratarla. Sì, ma come? E basta una comune crema, un'emulsione per il corpo, o è meglio far precedere qualche trattamento? Sicuramente intanto ringrazio il professor Agus per il bel omaggio che fa con la frase di Ovidio a noi donne, soprattutto anche perché sentivo parlare prima molti uomini sul problema delle loro gambe, di solito sono sempre le donne a lamentarsi dei loro problemi fisici, quindi una volta tanto dividiamo anche diciamo le competenze della miscela. Noi arriviamo in questo periodo in effetti dell'estate, che ci ricordiamo delle nostre gambe gambe da un punto di vista dermatologico, no? Quindi, come diceva lei, il primo problema è proprio la secchezza che affligge tutti, è l'arto che ci sostiene ed è anche l'arto che poi andiamo a scoprire, visto che poi le donne usano molto di più ora i pantaloni, altro motivo di attrito di indumenti sulla pelle. Quindi lasciando le scoperte ci ritroviamo un po' a ripagarci, no, di tutti gli errori che abbiamo commesso durante l'inverno. Una buona cosa è, visto che proprio è la zona più secca del corpo, non essendoci tante ghiandole sebacee, andiamo un poco a preoccuparci ridratandole, ma in maniera, diciamo, proprio con alcune procedure. Quindi va bene eseguire dei peeling, va bene utilizzare dei prodotti che siano indicati proprio specificatamente anche a base di alfa idrossiacidi o di comunque sostanze che allontanino un poco le cellule cornee. Sì, quindi facciamo prima un peeling o uno scrub. Esatto. Per togliere un po' la pelle, quelle che noi diciamo le cellule morte. Non so se le chiamate anche voi nello stesso modo. Teoria era un'idea che si aveva che lo strato più superficiale fosse uno strato completamente morto. Attualmente sappiamo che è uno strato invece molto attivo, perché ci sono attività enzimatiche e soprattutto attività di protezione molto importanti, insomma, per la nostra pelle. Quindi diciamo che lo strato corneo, quello che va un po' più a difenderci, ma che non è proprio del tutto morto. Sì, semi, diciamo, però possiamo uno scrub possiamo farlo, uno vero? Scrub assolutamente, come si precisava prima, quindi anche un'attenzione particolare al nostro sistema circolatorio, perché sappiamo che tanti eczemi tante problematiche anche sulla pelle sono legate a una cattiva circolazione periferica, certo. Quindi se ci accorgiamo che la problematica riguarda la parte superficiale, insomma, interpelliamo sicuramente chi potrà farci eseguire Doppler o insomma indagini più approfondite. E quindi è utile utilizzare prodotti mirati, valutare anche per chi ad esempio esegue depilazione e ha follicoliti recidivanti, cioè quelle anestetiche macchie che si formano dopo la depilazione, cercare di utilizzare dei prodotti schiarenti o anche in questo caso evitare le follicoliti, quindi con creme antibiotiche prescritte dal dermatologo. Ma per idratare le gambe, le nostre gambe, ci sono delle creme particolari? Ci sono dei trucchi anche. Sì. Vogliamo per questo periodo estivo, anziché, perché molte volte sono anche i detergenti che noi utilizziamo nella doccia e poi la dimenticanza di passare una crema costantemente. Sì. E quindi sostituiamo magari anche il detergente con qualche olio da bagno, in maniera tale che se abbiamo anche una certa fretta per andare in ufficio, la pelle rimane comunque idratata perché non ha subito una depilinizzazione. Certo. Cioè quindi olio al posto del latte. E dei detergenti, certo. Per la doccia. E poi ci sono adesso prodotti direi molto validi in commercio che aiutano anche a stimolare un po' la microcircolazione periferica, che possiamo applicare o di notte o anche di giorno, eliminando anche il problema delle calze sintetiche o magari sostituendo il pantalone a un vestito, la pelle sicuramente riprende una condizione anche un po' più morbida o un po' più elastica. Dottoressa Rigoni, prima di salutarla, abbiamo spazio ancora alle telefonate dei nostri ascoltatori, abbiamo parlato col professor Agus di venuzze capillari che danno fastidio, sono antiestetici, il professore ci ha detto di guardare esattamente dove si trovano, se all'interno della caviglia o all'esterno, ma si possono anche mascherare, c'è il trucco anche qua, vero dottoressa? Adesso esistono degli ottimi camouflage, sono tutta una linea, diciamo, di proprio il cosiddetto trucco correttivo. Sì? Sono prodotti che vengono applicati, sappiamo che il rosso viene mascherato molto bene dal colore verde, quindi un piccolo stick verde aiuta a fare una base e poi sopra possiamo applicare una crema colorata o un piccolo stick colorato della stessa tonalità della nostra carnagione. Dottoressa Rigoni, dobbiamo invitarla a tornare con noi per parlare di cellulite, arrivano davvero tanti messaggi, però il tempo a nostra disposizione è poco e vorrei affrontare con lei il tema proprio in modo chiaro e preciso. Dovevamo pensarci prima, ma facciamo i conti adesso con la cellulite, quindi ne parleremo. Grazie dottoressa Rigoni, le auguro una buonissima giornata. In gamba per tutti. In gamba anche a Vittorio. Vittorio che ci chiama da Frosinone all'800240024. Avete tempo ancora di saltare la nostra barriera rosa e tra l'altro questo sarà sicuramente un esercizio benefico per le vostre gambe. Vittorio, buongiorno. Buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione. Grazie, complimenti anche a lei che la segue. Quando posso sempre. Bravo. Allora, senta, che io, succede? Allora, io frequento una palestra con abbinato a una spa. Sì. Quindi, siccome ultimamente, negli ultimi 3-4 anni, sono comparse le vene, la parte bassa degli stinchi alla caviglia interna, sembra una carta geografica praticamente, problemi di circolazione non ne ho, quindi volevo sapere, siccome io normalmente quando mi alleno poi passo alla parte spa, sì, volevo sapere se ci sono controindicazioni per questo fatto. Anzi, credo proprio di no, il professor Agus la manda volentieri allo spa dopo l'allenamento, la meritata spa. Certo, professor Agus. Certo, perché diciamo così che, come ha detto l'ascoltatore, che dà un bel contributo, in realtà lui non ha problemi di circolazione. Questo che vede è un po' un regalino o della mamma o della nonna, perché l'uomo che ha teleangiectasie, i cosiddetti capillari, li ha non per fatto ormonali che sono chiaramente femminili, ma perché li eredita, e pazienza. Fortunatamente noi uomini, a meno che non sia un ciclista, abbiamo i peli che ce li nascondono questi capillari. Però andando nel merito della spa, va benissimo la spa perché c'è il gioco di diverse temperature. Se noi facessimo effettivamente solamente una sauna, effettivamente questa dilata sia vene sia capillari in maniera nociva. Però normalmente dopo la sauna ci si immerge in acqua fredda, non dico gelida come in Finlandia, ma sicuramente con quella ginnastica vascolare che torna a beneficio. Professore, molti dei nostri ascoltatori chiedono, proprio per la circolazione, se sono utili le scarpe, quelle un po' a gondola, basculanti. Sì, sì, sì, senz'altro. Citerò che l'invenzione addirittura è di un italiano, così come per tanti altri tipi di scarpe che hanno avuto successo nei mercati mondiali. Oggi sono di fabbricazione svizzera, però l'ideatore è italiano e sicuramente con la giusta indicazione sono molto ma molto utili, perché risolvono problemi posturali importanti, sì. Amico delle nostre gambe, lo sappiamo, è anche e soprattutto il movimento. Sappiamo dai nostri esperti che anche per chi fa un lavoro per molte ore sta seduto davanti a una scrivania, dovrebbe ogni tanto alzarsi e fare 4 passi. Questo sarebbe già sufficiente per un po' riattivare la circolazione, che non va riattivata perché la circolazione comunque, no, continua, ma è un modo di dire per far capire quanto il movimento sia benefico per il nostro organismo. Un consiglio rapido per chi come me passa tante ore davanti al PC e quindi sta seduto? Alziamo? Invece vi alzate e anziché camminare, se non avete lo spazio, lo yoga economizza anche in quello, perché ci si adatta, e si può usare la seggiola, sì, come appoggio per le mani anziché per il bacino, sì, e fare il saluto al sole con la seggiola. Cioè l'alternanza tra il cane a testa giù e il cane a testa su, appoggiati con le mani sulla seggiola. E quindi si inverte completamente la disposizione della schiena, della testa e delle gambe rispetto alla posizione seduta. Se volete seguire i consigli di Tite e volete fare il saluto al sole sulla seggiola, lo fate magari nel vostro open space, coinvolgendo anche naturalmente i vostri colleghi, postatelo e mandatelo sulla pagina di Cuore Denari. Intanto saluto Tite Togni, ringraziandola per essere venuta con noi, per i consigli che ci ha dato, il grandissimo professor Agus, grazie professore, anche per Ovidio, lei ci ha davvero tirato sul morale, a volte basta poco, grazie, e noi ci sentiamo come sempre domani, Paolo Corleone in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi e Marco Lombardo in redazione, domani torna Deborah e saremo di nuovo insieme, buona giornata a tutti. Io non parto. Cosa? Non parte? E seguire davanti non voglio, perché io voglio stare dietro, che mi fanno male le gambe, io le devo stenni. E togliamo il sedile. Come il sedile? Ma cosa che vuole? Che ci vuole? Ma che stai a scherzare? Leghiamo il sedile e femmola contenta. Mannaggia, mo basta, sempre io con sto problema di ste gambe, io non ce la faccio più. E allunga le gambe, ripiega le gambe, ristende le gambe, ritira le gambe, ricopri le gambe.